A bordo campo di Dario Ricci. 29 agosto, 9 settembre, queste le date delle Paralimpiadi di Londra, sì, perché Londra sarà anche e soprattutto paralimpica, visto che i giochi paralimpici tornano di fatto in quella Gran Bretagna in cui videro la luce. Allora oggi approfondiamo proprio la marcia d'avvicinamento dello sport azzurro verso le Paralimpiadi londinesi con il nostro ospite, benvenuto a Luca Pancalli. Salve a tutti. Presidente del Comitato Paralimpico Italiano, vicepresidente del CONI. Allora, presidente Pancalli, si torna a casa per il movimento paralimpico perché proprio qui, come ricordavamo, le Paralimpiadi hanno avuto la loro origine. Sì, si torna a casa e la dimostrazione sta pure nell'enfasi che il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Londra ha messo in questo ritorno del movimento paralimpico, laddove mosse i primi suoi passi negli lontani anni 50, nel 56, e sta puntando molto su questo anche dal punto di vista e sotto il profilo squisitamente organizzativo, tentando di rappresentare, ma io non sono certo che ciò sarà così, poi alla fine la migliore paralimpiade della storia. Spedizione azzurra, che come sarà costituita, a che punto siamo in termini di qualificazione? Immagino squadra praticamente fatta, no? Sì, devo dire che un primo grande successo il movimento paralimpico italiano lo fa segnare proprio nei numeri della delegazione azzurra, perché 98 sono gli atleti qualificati e rappresenta la delegazione più numerosa da sempre, almeno dall'88 ad oggi, quindi dall'edizione paralimpica di Seul, il che vuol dire che evidentemente il comitato ha lavorato bene, perché se tanti sono i ragazzi e ragazze, atleti ed atlete disabili, si sono qualificate, significa che a fronte di un attività verticistica si è mosso una spinta in termini di allargamento della base dei praticanti, che ha prodotto evidentemente tutto questo, quindi il risultato comunque da questo punto di vista lo già abbiamo ottenuto. Altro risultato: noi saremo presenti con questi straordinari 98 atleti su 12 delle discipline rispetto alle 20 del programma paralimpico, solo 12, perché ahimè su alcune non ci siamo qualificate e alcune discipline non vengono praticate nel nostro paese, però in queste 12 possiamo veramente dire di avere degli atleti di assoluto livello. Risultati ottimali quelli del vertice del movimento, come testimoniano questi numeri e come poi confermeranno sicuramente anche le gare, ma anche quest'anno, anche stavolta, si sono dovuti fare i salti mortali per ottenere i finanziamenti al Comitato Paralimpico, no? In tempi di crisi è ancora più difficile far tornare i conti. Ma questo devo dire che, insomma, noi siamo, da persone disabili, siamo abituati a lottare, insomma, non, francamente la nostra vita è plenamente costellata di ostacoli di fronte. Non ci ha spaventato, anche se ci ha reso all'epoca molto preoccupati, la difficoltà nel riacquisire il finanziamento per l'anno in corso, posto che era l'anno paralimpico, ma devo dire poi alla fine il ministro Gnulli è stato particolarmente attento a quelle che erano le nostre esigenze, soprattutto i miei gridi d'allarme, per cui siamo riusciti ad ottenere il finanziamento che c'era stato fino all'anno precedente garantito. Oggi quindi abbiamo potuto guardare alla preparazione di Londra con grande tranquillità e con maggior serenità, sapendo poi, tra virgolette, di essere nel giusto, nel senso che il finanziamento del Comitato Paralimpico da parte dello Stato, che insomma si attesta su 6 milioni di euro, non è una un segreto, è un finanziamento che va interamente ad sostegno dell'attività sportiva dei ragazzi, per cui non è un finanziamento che sostiene il modello organizzativo, è un finanziamento che è esclusivamente utilizzato per l'attività sportiva, quindi il primo vero obiettivo del nostro comitato. È ovvio che noi oggi pensiamo a Londra, da presidente, dove un pizzico di pizzico di preoccupazione per il futuro, perché poi a settembre-ottobre rientreremo nel vivo delle discutende finanziarie, un pizzico di preoccupazione ce l'ho, ma da cittadino di questo paese mi rendo conto che siamo in una situazione difficile, che le difficoltà probabilmente le troveremo pure noi, però il mio auspicio è che, considerate le cifre rispetto al benessere che genera il movimento paralimpico, possano almeno garantirci il durare di questo sostegno. Anche perché già a Rio 2016 state pensando, no? Proprio qua da bordo campo abbiamo qualche settimana fa parlato di questa esperienza, ad esempio del wheelchair rugby, no? Sport che già a livello internazionale nei paesi scandinavi, nel nord Europa, ha una certa popolarità e diffusione tra gli atleti paralimpici, e che anche qui da noi sta muovendo in modo sempre più consistente i primi passi, con l'obiettivo di approdare poi alle Paralimpiadi di Rio. A che punto siamo, Presidente? Esattamente, questo che ricordi è un aspetto importante, perché mi dà modo di segnalare il fatto che la nostra non è una macchina che si ferma di quadriennio in quadriennio e poi ricomincia a lavorare. Noi siamo costantemente proiettati nel futuro, nella consapevolezza che non si può attendere nella programmazione per raggiungere i risultati, per cui già stiamo lavorando su Rio de Janeiro. E il riferimento al wheelchair rugby, ma come ti aggiungo al sitting in volley, come alla boccia, che sono alcune proprio di quelle discipline nelle quali noi saremo assenti a Londra perché non praticate nel nostro paese, ebbene proprio su queste discipline noi da un po' di tempo abbiamo lanciato dei programmi di avviamento, di coinvolgimento e di diffusione sul territorio, con l'obiettivo di Rio de Janeiro, sì, ma con l'obiettivo principale, e non voglio far retorica in questo, di aumentare le opportunità di scelta sportiva a tanti ragazzi e ragazze disabili di questo paese, nel senso che è vero che noi si debba sempre pensare ai risultati, per carità di Dio, siamo uomini di sport e l'agonismo è parte di esso, ma è pur vero che io credo che un buon dirigente sportivo, ma soprattutto una buona organizzazione sportiva, debba pensare allo sport inteso come soprattutto strumento di tra virgolette politica sociale, e oggi lo sport nel mondo della disabilità rappresenta soprattutto uno straordinario strumento inclusivo di aggregazione e coesione sociale, per cui aumentare le opportunità offerte a tanti ragazzi e ragazze disabili va esattamente in questa direzione. Insomma, non siamo solo, non vogliamo essere un'officina di campioni, di campioni ce ne abbiamo tanti e lo dimostreremo e lo abbiamo sempre dimostrato, ma i campioni si creano allargando la base di questo iceberg che ha nei campioni la punta, e noi stiamo tentando di allargare sempre più la base dei praticanti al nostro movimento. Siamo quasi a 7 minuti di intervista, Presidente, ancora nessuna domanda su Pistorius. Allora, si può parlare di Paralimpiadi anche senza parlare del caso Pistorius? Ma io di Oscar chiaramente è una battuta, ma insomma, no, nel senso che Oscar, il movimento è più ampio anche di questo Oscar esempio eccezionale. Per carità, Oscar è diventato un'icona del movimento paralimpico, va dato atto e merito alla caparbietà con cui ha rincorso un suo sogno, ci è riuscito, di fronte ad una come dire, un risultato del genere, al di là delle polemiche che sono sempre all'orizzonte, io credo che ci si debba soltanto togliere il cappello, chapeau. È chiaro che Pistorius, dal mio punto di vista, non rappresenta né esaurisce soprattutto il movimento paralimpico. Il movimento paralimpico è fatto di migliaia di facce, persone, uomini e donne, ragazzi e ragazze, storie umane e personali straordinarie, la maggior parte, se non quasi tutte, sconosciute ai media, che fanno hanno 3.000, incontrano difficoltà per poter rincorrere il proprio sogno, ma che quotidianamente non lo abbandonano. Ecco, io da dirigente dello sport italiano e dello sport paralimpico italiano amo pensare che il nostro lavoro debba essere rivolto soprattutto a quei Pistorius sconosciuti e invisibili per i quali dobbiamo lavorare. Qualcuno lo troveremo sul podio delle Paralimpiadi di Londra. A proposito, quali sono le punte della nostra formazione? Allora, sicuramente devo dire il ciclismo paralimpico è diventato il ciclismo più forte al mondo, e questo do atto e merito alla Federciclismo, al presidente Di Rocco, che ha raccolto il paraciclismo nel proprio seno da un paio di anni e hanno lavorato veramente bene, soprattutto grazie anche all'apporto del CT Mario Valentini. Ma devo dire che noi sapremo dire la nostra, soprattutto oltre che nel ciclismo, nel nuoto, perché il nuoto azzurro paralimpico con Cecilia Camellini in testa non ha mai tradito, ma anche in una rinnovata e rigenerata atletica leggera, che con la straordinaria Martina Caironi, ragazza appartenente al gruppo delle Fiamme Gialle, che è un altro dei successi del mondo paralimpico, l'apertura dei corpi sportivi dello Stato, sicuramente farà parlare di lei, ma anche con la storia straordinaria di Assuntina Legnante, vecchia campionessa europea indoor di lancio del peso con la FIDAL, che ahimè nella vita ha incontrato la sfortuna di divenire cieca e oggi è un'atleta paralimpica che sicuramente ci regalerà grande soddisfazione. E poi via via anche tutte le altre discipline, ma sicuramente da queste, insieme al tennis tavolo, al tiro con l'arco, alla scherma, verranno i più grandi risultati. E poi da ultimo, permettetemi, il basket in carrozzina. Il basket italiano c'è a Londra, non c'è ahimè nel basket maschile olimpico, e questo è un rammarico ovviamente del vicepresidente Conti, ma il basket in carrozzina c'è e incrociamo le dita, perché nei gironi non si può mai dire. Un'ultima domanda, presidente, perché ahimè in tante cose lontano dalle altre Olimpiadi lo sport paralimpico si accosta purtroppo ai giochi a cinque cerchi anche per il flagello del doping. Esiste una strada paralimpica alla lotta al doping, un modo specifico, un meccanismo ad hoc che siete riusciti in qualche modo a mettere a punto? Ma assolutamente sì, al di là di quelli che poi sono i canonici percorsi che sono seguiti anche dal mondo olimpico, soprattutto per quanto riguarda i controlli e anche i percorsi come dire informativi e formativi di tecnici, atleti e qualsiasi cellula del movimento sportivo, noi stiamo da tempo come Comitato Paralimpico Italiano avviando tutta una serie di progetti, annualmente ne presentiamo uno nuovo proprio teso a educare e informare ragazzi e ragazze e tecnici che spesso per effetto della loro disabilità sono costretti a prendere dei farmaci, per cui occorre grande informazione, educazione e soprattutto promozione di una cultura contro il doping che ahimè, giustamente come segnalavi, si è nelle ultime edizioni paralimpiche, nelle competizioni internazionali, affacciato anche nel mondo paralimpico. Per fortuna in Italia non abbiamo avuto casi eclatanti, però diciamo stiamo tentando di seguire la strada della prevenzione piuttosto che rinviare alla cura della malattia quando oramai siamo troppo in ritardo. Ecco, da questo punto di vista io tengo molto a un percorso educativo e formativo. E allora, anche questa è una medaglia da vincere il prima possibile, intanto l'augurio è quello di far bottino pieno a Londra 2012 e ringraziamento al presidente del Comitato Paralimpico e vicepresidente del CONI, Luca Pancalli, per essere stato oggi nostro ospite qui a Radio 24 e a Bordo Campo. Grazie a voi. Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a Bordo Campo. A Bordo Campo. Olimpiadi di Londra 2012, certo, ma anche e soprattutto direi Paralimpiadi. Dal 29 agosto al 9 settembre Londra ospiterà anche le Paralimpiadi e direi appuntamento che sta diventando sempre più importante e significativo, e oggi ne parliamo con un ospite d'eccezione che punta ad essere protagonista nel ciclismo a Londra. Benvenuto Fabrizio Macchi a Radio 24 e a Bordo Campo. Grazie a tutti, buona giornata. Allora Fabrizio, direi che si pedala velocemente verso Londra perché ogni giorno è prezioso per allenamenti e preparazioni. A che punto siamo, a che punto sei soprattutto? Ma sono a buon punto, diciamo che abbiamo fatto le ultime gare di Coppa del Mondo, la sensazione era buona, adesso arriva il momento cruciale, quello dove non si può sbagliare più nulla, quindi bisogna fare tra virgolette sul serio. E senti, dal punto di vista della preparazione come stai lavorando? Londra ha delle peculiarità specifiche rispetto alle quali stai adattando la tua preparazione, oppure è semplicemente una tappa importante e quindi diciamo i ritmi di allenamento e le schede di allenamento non cambiano poi più di tanto? No, diciamo che io faccio la pista e la cronometro su strada. Per quanto riguarda la pista, il velodromo sarà un velodromo molto veloce, abbiamo fatto degli ottimi lavori in Galleria del Vento al Politecnico di Milano, dove ho ho potuto sistemare bene a livello aerodinamico i miei body e il casco. Per quanto riguarda invece il circuito, è un circuito che per me potrebbe andare bene, è vallonato, molto nervoso ed è un percorso che a me piace molto, e quindi io sto lavorando anche su questo tipo di allenamento che è molto a cambio di ritmo. Introduci un argomento importante quando si parla di Paralimpiadi, perché forse, come e ancor di più delle Olimpiadi per gli atleti normodotati, le Paralimpiadi sono anche l'eccellenza del connubio tra sport e tecnologia, visto che poi sono anche l'occasione per un focus sullo sport paralimpico ogni quadriennio. Rispetto a Pechino 2008, come è cambiato questo panorama? Quali novità dobbiamo aspettarci, almeno le più significative? Beh, guarda, allora, per quanto riguarda il paraciclismo, sono aumentati il livello prestazionale, è aumentato a dismisura, si fanno delle performance proprio veramente incredibili. Alcuni tempi che per Pechino erano tempi da podio, adesso sono tempi che fai fatica a entrare al velodromo, e quindi questo sta a significare che sta crescendo molto il livello delle Paralimpiadi, è cresciuto molto anche il livello di partecipazione. Quest'anno credo che a Londra ci saranno più di 4.000 atleti, un record storico, tenendo conto che Londra è dove sono nate le Paralimpiadi nel 1948, quindi sicuramente farà una cosa stratosferica a Londra da questo punto di vista, e darà una grande possibilità a livello di immagine e di visibilità a tutti gli atleti che vi parteciperanno. Eh sì, hai fatto bene a ricordarlo, perché le Paralimpiadi tornano a casa, no? Per molti aspetti, e di questo fatto Londra vuol proprio fare la propria bandiera. Ma credo di sì, perché ha fatto già un passo importante nell'aver fatto lo stesso logo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. È la prima volta che accade in tutte le Paralimpiadi, della storia delle Paralimpiadi, quindi questo è un passo notevole. Dopodiché so che stanno facendo degli sforzi enormi per fare tutto in diretta anche le Paralimpiadi, e quindi c'è la possibilità di vedere tutte le gesta di noi atleti paralimpici proprio in diretta, e questo è un altro passo molto importante verso l'uguaglianza. Ecco, torneremo subito su questi temi, ma tornando invece agli aspetti della preparazione, dal punto di vista dell'alimentazione, come si prepara una Paralimpiade? Oddio, la cucina inglese potrebbe anche far venire qualche preoccupazione, concedimi la battuta. Beh, diciamo che lì c'è il vantaggio del villaggio olimpico. Il villaggio olimpico si può mangiare tutto, di tutto trovi. Beh, diciamo che quello come mi sto preparando io, è da anni che sto usando questo tipo di alimentazione, perché non la puoi inventare all'ultimo e andare alle Olimpiadi con un'alimentazione diversa. La mia è un'alimentazione pressoché molto, molto sana, pasta, riso, pollo alla griglia, ma la cosa fondamentale sono gli integratori che ti permettono di recuperare tra un allenamento e l'altro, e questo è veramente un aggeggio importantissimo per noi per recuperare il meglio. Ecco. Ecco, dicevamo del progresso tecnologico che caratterizza ogni edizione delle Paralimpiadi. L'esempio più estremo e noto è quello di Oscar Pistorius, no? Ricordiamo tutta la sua battaglia legale, anche etica per molti aspetti, fatta alla vigilia di Pechino 2008 per poter prendere parte poi anche alle Olimpiadi, oltre alle Paralimpiadi, poi mancò la qualificazione. Direi che da questo punto di vista oggi Pistorius non è più solo nel testimoniare l'importanza e il peso specifico dello sport paralimpico. No, credo di no, credo che lui ha fatto un po' da spartiacque, ma adesso il livello, come ho detto prima, è altissimo. Ad esempio alcuni di noi lavorano, come ho detto prima, in Galleria del Vento per migliorare le performance del tessuti, del caschi, delle biciclette, la tecnologia delle bici, delle ruote sono di altissimo livello, e quindi bisogna cercare di fare il più possibile per essere all'avanguardia, perché gli inglesi e gli australiani sono 10 passi davanti a noi e noi dobbiamo cercare di metterci a ruota e di fregarli sulla linea dell'arrivo. Vero anche tra l'altro che la sfida di Pistorius, è bene ricordarlo, nell'ambito paralimpico non fu supportata o non è stata o non è supportata da tutti gli atleti paralimpici in toto, perché il ragionamento che molti fanno è che questa corsa a voler partecipare a tutti i costi alle Olimpiadi sminuisce in qualche modo indirettamente le paralimpiadi stesse. Da questo punto che fronte c'è? Ci sono ancora questi due schieramenti contrapposti? Ma sì, alcune persone la pensano così, ma io credo che se lui è in grado di sostenerle entrambi, fa bene a farlo, e l'importante è che ci siano dei regolamenti chiari e che lui li possa rispettare, e penso che sia un'opportunità unica, ma che non è solo per lui, altri atleti possono fare quello che fa lui, non è una regola ad persona, ma è una regola che accade per tutti quelli che possono andare forte come nel suo caso, e quindi io la prendo bene questa cosa, per me non è un grosso problema e non la vedo come uno sminuire le Paralimpiadi. E insomma, che sia poi il cronometro o il metro il giudice più inflessibile a cui tutti devono poi adeguarsi. Due mondi che sono sempre più vicini, purtroppo però anche negli aspetti negativi, e in questo caso anche il flagello del doping non lascia immune il mondo paralimpico. Si possono trovare delle contromisure specifiche o gli strumenti che il mondo olimpico ha messo a punto possono essere sufficienti? Non lo so, secondo me non sono mai sufficienti, però la stessa situazione che c'è nel mondo olimpico c'è nel mondo anche paralimpico, probabilmente nel mondo paralimpico un po' di meno, ma i furbi ci sono anche lì, quindi dipende molto dall'onestà delle persone. Ti chiedo ancora Fabrizio, dal punto di vista dell'approccio dei normo dotati allo sport paralimpico, noti dei passi avanti, noti di una crescita dal punto di vista della riflessione sullo sport paralimpico? Direi che ad esempio in Italia le Paralimpiadi invernali di Torino 2006 sono state e furono un grande catalizzatore per far conoscere tutti gli aspetti di queste discipline a chi invece prima non ne sapeva nulla. Ecco, si sono fatti dei progressi e se sì, quali sono invece i passi ancora da fare? I progressi ce ne sono stati fatti tantissimi, sicuramente come ogni cosa bisogna progredire, non si può fermare, a livello mediatico è stato fatto tantissimo, ma ancora tanto c'è da fare, sicuramente secondo me Londra sarà una Paralimpiade che darà una svolta importante, perché innanzitutto le competizioni sono in Europa, non sono come a Pechino che era dall'altra parte del mondo, era difficile anche vederle, a capire, arrivarci e a tastarle se vuoi anche di persona. E secondo me Londra darà una svolta ancora di più agli atleti paralimpici. Volendo immaginare quello che saranno queste Paralimpiadi, che immagine ti viene in mente? Cosa sogni, cosa desideri? Beh, cosa sogno, cosa desidero? Penso che sia una cosa abbastanza semplice. Mi piacerebbe salire sul gradino più alto del podio. Quello credo che sia una cosa che sognano molti atleti. Per me la quarta Paralimpiade, e non vedo l'ora che arrivi da un certo punto di vista, e sono preparato e pronto per cercare di salire sul gradino più alto, ecco. Con chi vai a giocartelo questo podio, sia in pista sia nella cronometro? Beh, in pista con un atleta cinese e un ragazzo irlandese, mentre per la cronometro con un francese, un irlandese e un russo. E allora Fabrizio Macchi, grazie per aver condiviso con noi le tue emozioni in vista delle Paralimpiadi di Londra, l'imbocca al lupo e d'obbligo, e anche il tifo e il supporto degli ascoltatori di Radio 24 e di A Bordo Campo. Grazie, grazie mille, e soprattutto grazie anche a Radio 24 che è sempre vicino a noi del mondo paralimpico. Un abbraccio forte. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, grazie a Matteo Comes in regia. Potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it e riascoltarci sempre dal nostro sito web e sempre sulla nostra pagina web, dialogare con noi attraverso il nostro blog. L'appuntamento come d'abitudine è per domenica prossima alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle 6.30. Un saluto e buona giornata da Dario Ricci.